La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti a un nuovo appuntamento con la storia su Radio 24. Questa settimana dedichiamo la prima parte della trasmissione alla commemorazione della firma dei Patti Lateranensi. Lo scorso 18 febbraio si è tenuto un incontro istituzionale ai massimi livelli tra lo Stato italiano e la Santa Sede per celebrare l'anniversario degli accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, sottoscritti l'11 febbraio 1929. Dino Pesole ospita il professor Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Incontro istituzionale ai massimi livelli lo scorso 18 febbraio tra lo Stato italiano e la Santa Sede per celebrare come ogni anno l'anniversario della stipula dei Patti Lateranensi. Il concordato tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano venne firmato l'11 febbraio del 1929 e pose fine alla lunga disputa originata dalla reazione della Santa Sede alla breccia di Porta Pia, la cosiddetta questione romana. Benito Mussolini per il governo italiano e il cardinale Pietro Gasparri per la Santa Sede apposero la loro firma sul concordato, i cui contenuti vennero poi ratificati dalla legge 27 maggio 1929, numero 810. Si trattò nel dettaglio di due protocolli: il trattato, con annessa una convenzione finanziaria, e un concordato. Il trattato, composto da 27 articoli e da 4 allegati, riconosce la necessità, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, di costituire un territorio autonomo sul quale il pontefice possa esercitare la sua piena sovranità. Viene così creato lo Stato della Città del Vaticano. Si conferma inoltre l'articolo 1 dello Statuto Albertino, in virtù del quale la religione cattolica, apostolica e romana è considerata la sola religione dello Stato. La persona del Papa viene dichiarata sacra e inviolabile. Particolari privilegi vengono concessi ai residenti della Città del Vaticano e al patrimonio immobiliare della Santa Sede vengono concesse diverse esenzioni fiscali. La convenzione finanziaria pone fine alle pendenze economiche fra le due parti, sotto forma di indennizzo dei danni subiti dalla Santa Sede con l'annessione degli stati ex pontifici all'Italia e la conseguente liquidazione di gran parte dell'asse patrimoniale ecclesiastico. Il concordato si compone di 45 articoli e assicura alla Chiesa la libertà nell'esercizio del potere spirituale, riconosce gli effetti civili del matrimonio religioso e delle sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici. Infine assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, al pari dell'assistenza spirituale alle forze armate e agli ospedali. Gli accordi siglati nel 1929 resteranno in vigore, come sappiamo, fino al 1984, quando Bettino Craxi e il cardinale Agostino Casaroli ne disporranno l'aggiornamento. Tra le novità si stabilì che la religione cattolica non fosse più la religione di Stato, che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola statale avesse carattere facoltativo e che nelle questioni di diritto familiare lo Stato rivendicasse la propria autonomia. Stato e Chiesa, un rapporto secolare attraversato da aspri contrasti, che solo in parte le innovazioni sul piano giuridico introdotte nei reciproci rapporti bilaterali sono riusciti a ricomporre, come abbiamo sentito. Uno dei maggiori storici del cattolicesimo democratico italiano è stato Pietro Scoppola. l'illustre studioso, scomparso il 25 ottobre del 2007. Ai suoi scritti, al suo pensiero, è dedicato il libro di Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano, dal titolo Chiesa e democrazia, la lezione di Pietro Scoppola, pubblicato dal Mulino. Buonasera e benvenuto, professor Giovagnoli. Buonasera. Gli elementi di maggiore spicco dell'insegnamento di Pietro Scoppola, anche alla luce dello stato attuale, potremmo dire, dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, secondo lei? Il suo insegnamento è stato a lungo insegnamento di una laicità conciliativa, se così posso definirla. È sicuramente un intellettuale, è un uomo del mondo cattolico, estremamente aperto al rapporto, al dialogo col mondo laico, per cui egli si è battuto anche contrastando gli steccati che abbiamo ereditato al passato e che continuamente tendono a risorgere appunto tra campi diversi. E in questo io credo che è stato sicuramente un protagonista di quella stagione che poi ha portato anche alla revisione del concordato, piuttosto complessa e laboriosa, ma che si inserisce forse nella stagione più felice dei rapporti fra Stato e Chiesa nella vicenda unitaria. Nella nostra breve ricostruzione, poc'anzi, professore, abbiamo un po' ripercorso quel che è avvenuto tra la firma del concordato del 29 e poi la revisione del 1984. È un po' come, sintetizzando, potremmo dire, lo specchio di come sia stato poi complicato tradurre in pratica il famoso precetto cavuriano del libero Stato in libera Chiesa. Lei condivide questo punto di vista? Sì, certamente. Il concordato del 29 è nato in un contesto che è quello di un accordo con un regime quantomeno autoritario come il regime fascista, e quindi è chiaro che la democrazia repubblicana ha sentito il bisogno di modificarlo in profondità. A ciò si è aggiunto anche poi la novità del concilio, a cui Scoppola è stato molto sensibile. Un suo specifico punto di vista su questa questione è che è stato possibile in realtà tutto ciò grazie a una maturazione complessiva che ha raccolto la lezione cavuriana, ma è andata oltre la lezione cavuriana, che era ispirata da una dottrina liberale certamente importante nel corso del XIX secolo, ma forse non pienamente adeguata a una visione più ampia, democratica e personalista che invece è riuscita poi a prevalere nell'Italia repubblicana, insomma, nel secondo dopoguerra. Certo, perché poi i cicli storici hanno i loro tempi, perché noi poi in realtà per arrivare al concordato, alla stipula dei patti lateranensi, abbiamo atteso, dico noi come italiani, molti anni, perché dalla Breccia di Porta Pia, la questione romana, il decennio giolittiano. Perché proprio Mussolini riuscì poi a riportare i rapporti diplomatici con la Santa Sede su un binario istituzionale, quantomeno? Ma io credo che non si deve sopravvalutare la capacità di Mussolini. Mussolini fu certamente un politico molto abile, colse le opportunità che gli si offrivano. In realtà era iscritto, come dire, nelle cose che lo Stato e la Chiesa in Italia dovessero riconciliarsi. Non a caso lei ha ricordato quel celebre motto di Cavour, libera Chiesa e libero Stato, che già alludeva a una conciliazione pur nel momento dello scontro, e quindi la sua importanza storica è proprio nell'essere stato un lungimirante, appunto, Cavour, nell'indicare la via conciliazione. Ed è anche vero che 60 anni sono tanti, ma in termini storici dobbiamo dire che sono anche pochi, cioè in fin dei conti, visto lo strappo risorgimentale, si poteva anche immaginare che sarebbero passati addirittura secoli. Invece, tutto sommato, è passato un tempo relativamente ridotto e che certamente Mussolini ha saputo cogliere, ma che io credo, appunto, questa spinta alla conciliazione non è opera né sua né del fascismo. Ecco, tornando a Pietro Scoppola, oggi si dibatte molto ancora del rapporto tra Stato e Chiesa e spesso, appunto, viene evocato il termine ingerenza della Santa Sede negli affari interni italiani. Un suo punto di vista su questo e soprattutto come Pietro Scoppola impostò questa questione, che poi è secolare obiettivamente? Ma Scoppola l'ha impostata da una parte sottolineando con grande enfasi il portato dell'articolo 7 della Costituzione, che appunto, recependo i trattati con la Teranensi ha sancito in modo definitivo una riconciliazione fra Stato e Chiesa in Italia, quindi questo è stato lo sfondo in cui egli si è mosso. Poi più specificamente negli ultimi anni lui ha insistito su due cose, che l'insistenza della Chiesa su alcuni interessi è una insistenza legittima, lui così la definiva, ma che secondo lui questo tipo di insistenza impoverisce, se fatto in modo esclusivo, i rapporti tra Stato e Chiesa, perché lui riteneva molto più importante un contributo a livello dei valori, a livello di ispirazione di fondo, a livello in sostanza di un afflato morale che la tradizione cristiana, quindi in Italia la Chiesa Cattolica, poi deve dare alla vita civile. Quindi era per un'ingerenza, come dire, etica in qualche modo, non politica, non giuridica, non economica, non materiale, se così posso dire, ma in qualche modo spirituale nel senso alto del termine. E oggi, professore, ha un senso ogni anno rievocare la firma di quel trattato, e come si può contestualizzare anche nell'attuale momento dei rapporti non sempre semplici anche dal punto di vista politico e diplomatico tra Stato italiano e Santa Sede? Ma certo, le situazioni cambiano, la problematica del 29 lontana, ma è anche quella dell'84, anche quella della revisione, quindi come dire, ogni volta assume un significato diverso questo appuntamento, come succede per tutte le celebrazioni. Quest'anno, sappiamo, è stato un appuntamento complesso, difficile, perché le due parti sono state, o meglio, da parte della Chiesa c'è stata molta attenzione a non dare nessun rilievo e a confinare nell'ambito strettamente istituzionale, perché è evidente il disagio in questo momento della Chiesa Cattolica nei confronti dell'attuale governo, in particolare della persona di Silvio Berlusconi. Non a caso il Cardinale Bagnasco ha usato il termine incontro di prassi, professore, quasi, come dire, a gelare un po' gli entusiasmi della vigilia. Certo. Sì, ha voluto sottolineare, come dire, un basso livello, ecco, dell'incontro, insomma, senza nessun significato particolare. Certo, quantomeno istituzionale. Grazie professore, grazie e buon lavoro. Vi ricordiamo che Radio 24 è impegnata in occasione dei 150 anni d'Italia in una serie di trasmissioni storiche e di approfondimento. Tra queste c'è anche il Gazzettino del Risorgimento, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 6.55 e alle 12.10.